Ma più che altro qui in laboratorio assolutamente, e se no sono delle gallerie anche, quindi vendo a delle gallerie che trattano gioiello contemporaneo e non conosco il mio acquirente poi, ormai. Viene per via telematica il contatto e... O anche attraverso questa associazione. Ho incontrato appunto dei galleristi e loro fondamentalmente scelgono delle persone o comunque scelgono dei lavori che possono interessare, li acquistano e li rivendono Soprattutto in Italia o all'estero? loro. Sia in Italia che Anche all'estero. in Italia. Sì, assolutamente. E Padova, per quanto riguarda il gioiello contemporaneo, è veramente la città che promuove e ha promosso sempre di più. C'è questo istituto artistico a Padova che ha formato i grandi maestri italiani per quanto riguarda il gioiello contemporaneo. E quindi a Padova ci sono varie gallerie e sono poi gallerie che lavorano tanto anche con l'estero, no? Che hanno appunto conoscenti e acquirenti tanto dalla Germania, dall'Olanda e dall'America. Adesso si sta aprendo questo settore anche verso l'America. Gli americani appunto sono particolari poi, cioè la particolarità è anche questo, che si vede come appunto i tedeschi amano più certe linee, gli olandesi altre, gli americani completamente altre e i giapponesi anche.